America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero, sono rientrato l'altra notte dal viaggio di Barack Obama a L'Avana, poi Obama ha proseguito per Buenos Aires. Sarebbe stato complicatissimo continuare a seguirlo in questo viaggio, dunque sono qui nella capitale americana. Ho fatto un passaggio tra l'altro ieri mattina al Congresso, dove mi sono reso conto quanto ci siano ancora resistenze fra deputati americani per questa apertura di Barack Obama a Cuba. Devo dire resistenze che guardano indietro invece di guardare in avanti. Ieri invece Obama era a Buenos Aires, come vi ho detto, era alla Casa Rosada, era addirittura in questa sala spettacolare, la Sala Blanca della Casa Rosata, con ori e decorazioni barocche in contrasto con quella semplicità modernista che ho visto nel Palacio della Rivoluzione a L'Avana. Ma per il resto devo dire che certe grandiosità coloniali nelle due capitali latinoamericane sono molto simili. Certi modi di essere naturalmente sono simili, e ora guardando avanti nel tempo ci si chiede se potranno esserci anche similitudini sul piano politico o su quello economico. Io credo di sì, ci vorrà tempo naturalmente, però è proprio di questo che Barack Obama e Mauricio Macri, il presidente argentino, un volto nuovo non solo per la politica argentina ma per quella sudamericana in genere. Macri ha già fatto enormi riforme, e dal 1916 che a Buenos Aires non c'è un presidente eletto in modo semplicemente democratico. È un ingegnere civile a 57 anni, è una persona diciamo normale, non è certo un peronista, non è un populista, in qualche modo sembra andare contro il tempo. Di questo si è parlato, delle riforme, del disgelo con Cuba, del futuro, non solo di relazioni bilaterali. Ecco, però, per prima cosa, i due leader, soprattutto Barack Obama, devo dire, hanno parlato di terrorismo, dell'attacco a Bruxelles e delle sfide che ci riguardano un po' tutti. Sentiamo Obama. This is my top priority as well. It is the top priority of my national security team. Ecco, il primo appello di Barack Obama è per l'unità. Dobbiamo essere uniti, ha detto il presidente ieri, contro il terrorismo, lo avete sentito. Quando vediamo attacchi simili a quelli che abbiamo visto a Bruxelles, il nostro cuore sanguina. Preoccupano questi attacchi gli americani, mi impauriscono. Come padre di due figlie, non c'è una questione nella mia agenda presidenziale più importante se non la sconfitta di questi terroristi che hanno colpito l'Europa, ma anche molti musulmani che esprimono la loro fede in modo diverso da quello che vuole questo gruppo. Ecco, devo dire, a freddo, questo attacco a Bruxelles brucia, brucia molto, brucia in America, non soltanto in Europa, brucia per la sfida, per l'affronto implicito contro le autorità internazionali, non solo quelle belghe naturalmente, che collaborano per giocare all'anticipo e sventare proprio questo tipo di attentati coordinati. Eppure devo dire che nonostante la provocazione, Obama chiede a tutti di tenere nervi saldi. Ci vogliono naturalmente risposte adeguate ma non scomposte, e Obama ha rifiutato di rispondere, e qui cito le sue parole, di rispondere con la paura. Fare bombardamenti a tappeti, ad esempio in Siria, finirebbe col rafforzare l'ISIS. Attenzione, dice Obama, potrò considerare l'uso della forza militare, ma secondo i nostri termini, non secondo quelli che cercano di dettarci i terroristi. Dunque Barack Obama rivendica la bontà della sua strategia. Noi dobbiamo andare avanti, dice il presidente, lungo una linea diritta. Questa nostra strategia ci ha portato dei risultati. Sentiamo di nuovo Obama. Leadership networks and couriers and disrupting the connection between... Ecco, qui Obama sottolinea che hanno già tolto all'ISIS e Barack Obama il 40% del loro territorio. La loro leadership è stata colpita. Continueremo a spingerli fuori dalle loro roccaforti fino a quando non saranno distrutti. Certo, ammette Obama, è difficile identificare un numero ristretto di persone che si confondono nella folla e poi si uccidono facendo detonare una bomba. Questo è un rischio, l'amministrazione l'ha già detto mille volte, io l'ho detto più volte in questa trasmissione, con cui dobbiamo abituarci a convivere, il rischio di un attacco improvviso e incontrollabile. Sul piano interno Obama ha criticato invece il senatore Ted Cruz per aver proposto di nuovo una soluzione che secondo lui è razzista, cioè una sorveglianza anche con telecamere speciali, con sorveglianze speciali in quartieri islamici in tutta l'America. Sentiamo Obama su Cruz. I just left a country that engages in that kind of neighborhood surveillance. Ieri ero a Cuba, il padre di Cruz ha lasciato quel paese proprio per gli eccessi autoritari, e ora, che ci auguriamo che vadano a sparire a Cuba, li vuole importare in America. Non solo questo è antiamericano, ma è anche sbagliato e controproducente. Reflexionar junto a ustedes que Los fanatismos traen intolerancia, agresión, violencia que no lleva a ningún lugar. Torniamo al vertice della Casa Rosada. Si è parlato anche di terrorismo sudamericano. C'è stato tra l'altro a La Habana un incontro del segretario di Stato Kerry con guerriglieri del FARC, una cosa questa senza precedenti perché c'è terrorismo anche in Sud America. Ma quello che ha dominato l'incontro fra Barack Obama e Mauricio Macri è l'aspetto economico, l'aspetto che riguarda le riforme. Macri ha promesso che non ci saranno più fallimenti sovrani, che ci saranno riforme in continuazione per la trasparenza, e devo dire che sia il mercato che le istituzioni non solo l'appoggiano, ma hanno già visto risultati importanti. Per questo, dopo 20 anni dall'ultima visita di un presidente americano, Obama è venuto anche qui a Buenos Aires. Ecco, da Cuba all'Argentina qualcosa sta cambiando in Sud America. Abbiamo i problemi politici in Brasile, che è il colosso economico della regione, ma devo dire le premesse sono molto buone. Con l'Argentina, tra l'altro, l'America ha firmato vari accordi economici e commerciali. Obama non è voluto entrare nel merito dello scontro fra governo e hedge funds. Tra l'altro, il presidente americano non ha molta simpatia per questi hedge fund che chiedono il sequestro di navi argentine per pagare il debito che è stato ristrutturato, ma loro non hanno voluto partecipare a quella ristrutturazione. Dunque c'è quel confronto, ma anche quello andrà risolto. Obama non vuole parlare di queste cose, non è abbastanza presidenziale. La verità è che questa sera, quando tornerà in America con la famiglia, dopo questo viaggio complessivamente storico, prima a La Habana, poi a Buenos Aires, il presidente potrà rivendicare di aver messo il cappello della storia, della sua storia, della sua amministrazione sul grande cambiamento in atto nel meridione del continente, un cambiamento potenzialmente strategico lungo la strada che ha voluto imboccare l'amministrazione Obama e sul cui percorso, ama pensare il presidente, continuerà anche chi avrà preso il suo posto alla Casa Bianca. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, c'è un senso un po' da questo viaggio in Sud America, questo ponte tra Cuba e l'Argentina, questa mediazione sudamericana di Barack Obama, cercare di stare insieme contro il terrorismo, l'essere insieme, come ha detto Obama, oggi prevale. Dunque, dei Beatles, Come Together, riuniamoci insieme. Come together. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.